guerra in vista. L'Expo spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici. Ben ritrovati a Terra in Vista. Io sono Federico Taddia, al mio fianco il filosofo della scienza Telmo Pievani. Ciao Telmo. Ben ritrovato, ciao. Il nostro è un tentativo di spiegare i grandi temi di Expo ai più piccoli, quindi con un linguaggio semplice, con domande puntuali che i giovani ascoltatori ci pongono, e noi queste domande le giriamo a grandi esperti. Ogni puntata una parola. La parola di oggi è spreco, che è quasi un allarme, vero Telmo? Eh sì. Oggi parliamo di noi e di tutto quello che buttiamo via. Quindi una parola che ci rende, nostro malgrado, protagonisti, ma possiamo essere anche virtuosi. Ma partiamo proprio dai bambini. A loro abbiamo chiesto di dirci che cos'è lo spreco. Yuhu! Lo spreco è quando una persona prende ad esempio un panino e ne mangia un quarto e poi lo va a buttare. Lo spreco è quando ti danno ad esempio da mangiare in mensa e tu non mangi e neanche magari ti sforzi a mangiarlo quella cosa, e quindi lo sprechi, la butti via. Qualcosa che non è ancora finita e viene buttata. Tipo se tu butti qualcosa via che è appena iniziato. E quando magari butti via qualcosa che potrebbe ancora servire. E quando tipo hai una mela, gli dai due morsi e poi la butti via. Lo spreco è quando per esempio butto via qualcosa anche se non ho finito di mangiarlo ed è ancora lì tutto intero. Noi prendiamo la carta e la usiamo e poi la buttiamo via senza nessun motivo, perché la carta è stata usata dagli alberi, hanno tagliato degli alberi che prima erano viventi, e quindi la carta e l'acqua anche non si deve sprecare, nemmeno il cibo, perché ci sono alcuni bambini che il cibo non lo possono nemmeno avere e per l'acqua devono fare tanti chilometri per averla. C'è questa azione che è buttare via, che ritorna sempre nel tentare di dare una definizione della parola spreco. Che cos'è lo spreco, Telmo? Beh, questa volta i bambini sono stati perfetti, hanno azzeccato pienamente. Lo spreco vuol dire in generale il buttare via qualcosa di cui pensavamo di avere bisogno, e quindi buttiamo via l'acqua, c'è lo spreco di energia, c'è lo spreco di risorse che ci fa consumare per esempio la biodiversità inutilmente. Quello di cui parliamo oggi è lo spreco del cibo in particolare. Un dato impressionante: ogni anno noi sprechiamo 1,3 miliardi di tonnellate di cibo, una quantità enorme, una montagna. E lo sprechiamo per due ragioni: la prima perché lo produciamo e poi non lo consumiamo, lo buttiamo via, come hanno detto i bambini giustamente, ma anche per un'altra ragione, che non lo produciamo in modo corretto e quindi lo perdiamo nella filiera, si dice, cioè nel processo che porta a produrre il cibo. E lo spreco, questa grande montagna di cibo che buttiamo via, vuol dire due cose fondamentalmente. Il primo è l'inefficienza, vuol dire che non stiamo producendo il cibo nel modo giusto, ottimale, anche perché produrre il cibo consuma il territorio, le foreste e i pesci negli oceani e nei mari. E poi vuol dire una seconda cosa, vuol dire ingiustizia, perché per tante persone che sprecano ce ne sono almeno altrettante che invece non hanno letteralmente ciò di cui hanno bisogno, e quindi c'è un grande problema di diseguaglianza su questo pianeta. Oggi andremo a capire che cos'è lo spreco, andremo anche a scoprire cosa si può fare con i nostri rifiuti. Adesso una filastrocca, il traffico e poi Terra in Vista. Filastrocca sul risparmio dell'acqua. Mentre cantando mi faccio la doccia, chiudo l'acqua e salvo una goccia. Goccia che cade dal rubinetto? Se chiudo l'acqua, risparmio un laghetto. Risparmio un lago se lavo di meno, io chiudo l'acqua e vivo sereno. Vivo sereno facendo il bucato, se il cesto è pieno, non ho sprecato. Non ho sprecato neppure una goccia se invece del bagno faccio la doccia. Se faccio la doccia al cagnolino, senza la pompa, ma con il catino. Uso un catino per le stoviglie, risparmio acqua per tante bottiglie. Tante bottiglie risparmio fin tanto che bagno le piante di sera, al tramonto. Dopo il tramonto si cena e si va a letto. Lavo i dentini chiudendo il rubinetto. Chiudo il rubinetto e risparmio, sai cosa? L'acqua, trasparente, fresca e preziosa. Preziosa, pura, limpida e pulita, umida, brillante e che dona la vita. Terra in vista. Eccoci qua, quindi pronti a cercare di capire meglio cosa sia lo spreco e ovviamente, come sempre, lo facciamo dando risposta alle domande dei bambini. Questo è il loro primo quesito. Perché si butta via il cibo? Sono quelle domande che ti spiazzano, no? Perché sono ovvie, quasi banali, però dicono tutto. E vanno al cuore di un problema in questo caso. E noi cerchiamo il cuore della risposta e lo facciamo con il massimo esperto in Italia di tematiche legate allo spreco. Diamo il benvenuto ad Andrea Segre, insegna politica agraria internazionale comparata all'Università di Bologna e fondatore di Last Minute Market. Ciao Andrea. Ciao. Ciao. Ciao. Un bambino ti ferma per strada e ti chiede: Andrea, perché si butta via il cibo? Trova la risposta. Intanto succede, ogni tanto qualche bambino me lo domanda e usando linguaggio semplice io rispondo così: perché abbiamo perso il valore del cibo. È vero, ci serve per dare energia al nostro corpo, quando mangiamo dobbiamo mangiare bene, però certe volte non finiamo tutto quello che abbiamo nel piatto e questo finisce nella spazzatura e si spreca, perché invece è ancora buono da mangiare. E lo spreco in fondo, se ci pensiamo, è questo: qualcosa, un cibo, un alimento, una bevanda, forse anche un oggetto, ancora buono da mangiare, ancora buono da bere, ancora buono da usare. Ma quindi è solo questione di quantità? Ne abbiamo troppo e quindi c'è sempre una parte che cede e questa parte che cede finisce poi nella spazzatura? No, non soltanto, è anche una questione di qualità. Certe volte noi mangiamo anche troppo e male, e per dire, il numero di calorie, cioè l'energia che noi mettiamo nel nostro corpo, è in eccesso e questo ci fa star male, siamo troppo grassi per esempio, e anche questo in fondo è uno spreco. E l'oro nel piatto, valore e valori del cibo, è il titolo del tuo ultimo libro scritto con Simone Arminio, pubblicato con Einaudi. Lì fai anche una differenza tra il cibo che finisce nella spazzatura e il cibo che invece è spazzatura. Anche questi sono due esempi di spreco? Sì, è una distinzione un po' sottile, perché noi parliamo sempre, molto spesso, leggiamo, sentiamo in TV il cibo alto, quel cibo che vediamo cucinato dagli chef, questi straordinari personaggi che spadellano un po' davanti alle telecamere e talvolta anzi spesso nei ristoranti. Però è questo il cibo che mangiamo ogni giorno? È questo il cibo che, come si domanda Expo, nutrirà il pianeta? Forse no. Allora io guardo tutto il resto, e tutto il resto è soprattutto cibo spazzatura, cioè cibo prodotto male, trasformato male, che se finisce nello stomaco ci fa male, perché potrebbe avere delle conseguenze dal punto di vista di tante malattie che sono legate a una cattiva alimentazione, o anche spesso finisce nella spazzatura, e quella è una parte importante dello spreco. Allora cosa dovremmo fare noi? Ed è un po' la tesi del libro, se vogliamo, la scoperta dell'acqua calda: andare verso un cibo medio, una dieta media, né troppo alta e soprattutto non troppo bassa. E in fondo è forse un gioco di parole, però nel nostro caso, dove viviamo noi in Italia, abbiamo già una buona dieta media, e la dieta mediterranea, ne parliamo tanto, soltanto che non la facciamo. Andrea, ma perché secondo te ci buttiamo su questo cibo prodotto male? C'è una storia che circola sempre, si dice che lo facciamo perché abbiamo le reminiscenze della fame, delle carestie che abbiamo vissuto in passato. È vero o questi cibi in realtà ingannano i nostri sensi e si fanno attrarre indebitamente? Diciamo che nel corso degli ultimi anni, degli ultimi decenni, certamente l'industria alimentare, le catene che distribuiscono i prodotti, ma anche la ristorazione, cerca di attirare il consumatore un po' ingannandolo, sia con il gusto, sia con le etichette, e noi siamo un po' dei creduloni talvolta anche dei credenti, e ci facciamo ingannare. Certe volte il cibo, diciamo, è bugiardo. Però se dovessi trovare una data, visto che parliamo ai bambini e anche ci riferiamo alle scuole, io forse andrei indietro al 1963, un po' più di 50 anni fa, quando è stata tolta, diciamo, dagli insegnamenti delle medie l'economia domestica, che si insegnava soprattutto alle bambine, che era la cura della casa, era la programmazione economica, ma era anche l'economia alimentare, la gastronomia, la merceologia, cioè si studiava e si capiva cos'era il cibo. E come se da quel momento, e lì è partita anche la crescita economica del nostro paese, il baby boom, che forse quelli di quella generazione, io sono fra quelli, ricordano o comunque ne hanno sentito parlare, ecco, ci ha portato a perdere progressivamente questo valore. Pensiamo che il cibo sia una merce come le altre, che si possa sostituire, che si possa rottamare, come dice qualcuno, è un concetto economico, sostituisce qualcosa che è ancora buono, ne compri di più, lo vuoi pagare poco, allora sempre maggiore la quantità e minore deve essere il prezzo. E invece credo che così abbiamo perso un po' l'orientamento, forse la bussola, come non ci sono più i punti cardinali, i grassi e i magri sono ovunque nel mondo, non ci sono neanche più le stagioni e non c'è neanche più la cura e il valore del cibo. Grazie davvero Andrea, tutte le volte che tu ti alzi da tavola il tuo piatto è pulito? Assolutamente, figurati, adesso poi mi guardano tutti, quindi mangio poco per finire tutto. Bravo, ottimo esempio, un grazie ad Andrea Segre, ciao, buon terra in vista, ciao. Grazie. Andrea. Ciao, grazie, ciao a voi, ciao. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Stati Uniti. Forse non tutti sanno che la Casa Bianca non è solo il luogo delle scelte politiche di importanza globale e degli incontri tra i vertici dei paesi più grandi del mondo, ma è anche, e più semplicemente, una grande casa dipinta di bianco con un bell'orto sul retro. L'orto della Casa Bianca si chiama White House Kitchen Garden e vi si coltivano 55 varietà di verdure ed erbe aromatiche, tra cui il cavolo cinese, il cavolo cappuccio, l'origano, il rosmarino e il basilico. La First Lady degli Stati Uniti, Michelle Obama, ha creato il Kitchen Garden per ispirare tutti i cittadini a coltivare, mangiare e cucinare un cibo nutriente come parte di uno stile di vita salutare. Questi sono i nostri Expo Pub, tante curiosità trovate tra i padiglioni di Expo, ma continuiamo a parlare di spreco, lo facciamo con un bel racconto di Telmo Pievani. Telmo, parliamo di disuguaglianza, vero? C'è questo cibo, c'è chi ne ha troppo, c'è chi ne ha troppo poco, è sempre andata così, e questo cosa causa? Eh sì, perché quello che ci diceva prima Andrea Segre ha una conseguenza globale che è molto importante condividere con i ragazzi. Ti dico solo due dati che sono presenti nella carta di Milano di Expo: 800 milioni di persone soffrono di fame cronica nel mondo, quasi 2 miliardi di persone soffrono di malnutrizione. E dall'altra parte hai quasi 2 miliardi di persone, in particolare 1800 milioni, sono tantissime, che soffrono di obesità. È un mondo veramente strano questo, ed è un esempio di diseguaglianza incredibile. Qual è uno degli effetti di questa cattiva distribuzione del cibo? È il fatto che le persone sono obbligate, non hanno la libertà di farlo, ma sono obbligate a spostarsi, a migrare, sono le cosiddette migrazioni forzate. E pensa che è un'antichissima storia questa, perché l'uomo si sposta da sempre. Noi, pensa, viviamo sulla Terra da 2 milioni di anni come genere Homo, e abbiamo sempre deciso di spostarci da dove siamo nati, in particolare dall'Africa. Siamo usciti dall'Africa una prima volta, una seconda, una terza, e anche Homo sapiens, che siamo noi, la nostra specie, è nata viaggiando, è nata spostandosi, peraltro su percorsi che ancora adesso vengono praticati, perché dal Corno d'Africa, dal Sahara, siamo arrivati nel Medio Oriente, nel Mediterraneo. Quindi una vecchissima storia che poi è andata avanti, è diventata sempre più drammatica, si è sviluppata l'agricoltura, l'agricoltura ci ha permesso di produrre più cibo, quindi di dare da mangiare a più persone, ma pensa, questo ha fatto sì che la popolazione aumentasse sempre di più e quindi ci fosse sempre più richiesta di cibo, quindi più produzione di cibo e più richiesta per il futuro. I popoli sono diventati più grandi e hanno continuato a spostarsi, a colonizzare, a espandersi. Noi siamo figli di questa storia, il cibo è stato uno dei grandi grandi motori di tutti questi cambiamenti, e questi popoli che si spostano possono produrre a volte degli effetti negativi. Pensa per esempio in Africa, i Bantu erano degli agricoltori nati nel centro dell'Africa, si sono spostati poi verso sud e hanno portato all'estinzione tantissime popolazioni di cacciatori e raccoglitori, quindi un effetto negativo. Altre volte invece è un effetto molto positivo, perché questi spostamenti di popoli generano nuovi meticciati, nuove ibridazioni culturali. Fatto sta che comunque il mondo è sempre stato in movimento, è forse un'illusione pensare di fermarlo. Questa è la nostra storia, questa è la storia di Homo sapiens. Adesso invece è il momento di giocare creativamente con lo spreco. Expo Kids. Dire, fare, giocare. Spunti artistici legati ad Expo, spunti che ci propone Alessandra Falconi, atelierista metodo Bruno Munari e collaboratrice del blog disegnangolo.it, che come sempre vi invito a visitare perché è un ricchissimo bagaglio di spunti, dritte e coordinate educative. Ciao Alessandra! Ciao! Buongiorno a tutte e due e ai nostri ascoltatori. Vai, giochiamo con lo spreco. Cosa hai preparato per noi? Ho preparato una tecnica che non spreca assolutamente nulla. Fantastico. Ed è la tecnica del collage. Mm-hmm. Perché qualsiasi cosa, un frammento di carta stagnola, un pezzettino di corda, uno scarabocchio abbandonato su un fogliettino, possono diventare degli oggetti che entrano a far parte di un collage. E io direi di più, siccome detto così è facile, qualsiasi bambino magari l'ha già fatto nei vari livelli di scuola, io chiederei ai bambini che ci ascoltano di giocare in questo modo. La mattina trovano una regola, ad esempio tutti gli oggetti rossi, tutti gli oggetti piccoli. A sera, quando hanno il loro bel bagaglio di oggetti trovati un po' ovunque, compongono il loro collage utilizzando tutto quello che hanno trovato. Insomma, mi sembra un bello spunto. Mi chiedevo, vale anche col cibo? Si può fare anche con pezzettini di cibo avanzato? C'è chi l'ha fatto. Mm-hmm. Perché c'è questo artista che si chiama Daniel Squerri, spero di aver pronunciato bene il cognome, che ha lavorato proprio con gli avanzi, i resti, i piatti sporchi. Quando di solito ci si alza dalla tavola apparecchiata perché si è finito di pranzare o di cenare, lui ha inventato quella che si chiama Eat Art, un'arte della tavola che sono convinta i bambini apprezzerebbero molto. Assolutamente, insomma, poi tutto in frigorifero che diventa un po' l'archivio, diventa il museo appunto di queste opere artistiche, però mi sembra un'ottima dritta. E tutto ciò, Alessandra, e altro ancora lo troviamo sul blog disegnangolo.it, vero? Sì, perché dopo ci sono anche una serie di belle citazioni, una, se abbiamo ancora un secondo, Italo Calvino, sì, dove parlando della propria madre racconta come questa donna fosse riuscita a fare di ogni spreco una grande passione e a riuscire a vivere di queste passioni. Quindi possiamo anche trovare qualche riferimento allo spreco divertente e insolito. Grazie davvero Alessandra, al prossimo Expo Kids, ciao! Grazie a voi. A presto. Una filastrocca, la pubblicità, poi ancora terra in vista. Ricchezza e povertà. La ricchezza di ogni cosa ce ne aveva tanta aiosa. Ce ne aveva tanta assai, ma non le bastava mai. La signora povertà le chiedeva carità. La ricchezza disse: ahimè, son più povera di te. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Olimpia è la città dello sport, con le sue leggende, i suoi simboli, le sue verità, i suoi inganni. Tra mito e attualità continueremo a vivere insieme le grandi storie dello sport in un doppio appuntamento estivo. La domenica alle 16.30 e il sabato mattina alle 6.10. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito! Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo! Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, miti e verità dello sport. Naturalmente qui, su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Coop. Ti aspetta nel supermercato del futuro, in Expo Milano 2015. Terra in Vista. Federico Dadia, Telmo Pievani, Terra in Vista, l'Expo, spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici. Ogni puntata una parola, la parola di oggi è spreco, quindi è parola importante. Parola che tentiamo di spiegare attraverso le domande dei più piccoli. Domande tipo questa. È vero che con i pomodori si fa la plastica? Si fa la plastica dai pomodori. E qui cominciamo a discutere di come combattere lo spreco. È vero, perché insomma uno dice lo spreco di non sprecare, non buttare via, oppure appunto con lo spreco fare altro. Ma per capire se tutto ciò è realtà, abbiamo invitato Creta Redaelli, che è ricercatrice del gruppo Materiali Intelligenti dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Ciao Greta. Ciao a tutti. Ciao, benvenuta. Allora, partiamo proprio dai pomodori, è un fantasy o è vero? Cioè dai pomodori noi possiamo fare la plastica oggi? Ebbene, è vero, ad IT abbiamo creato un metodo che ci permette di trasformare i pomodori, o diciamo in generale i vegetali, in qualcosa che è in tutto e per tutto simile a una plastica, quindi creiamo delle bioplastiche. La cosa interessante è che, come vi dicevo, si può fare con i pomodori, ma si può fare un po' con tutta la verdura. Quindi immaginatevi tutto ciò che buttate in questo momento nel cestino dell'umido, quindi tutti gli scarti vegetali. E immaginatelo ancora più in grande su quello che sono gli scarti delle industrie che producono i generi alimentari. E pensate che in questo momento noi paghiamo perché vengano in qualche modo smaltiti. Ma noi... scusa Greta, per capire, ma parliamo proprio della plastica come la conosciamo o è una plastica diversa? Una plastica, che ne so, è una plastica profumata al profumo del pomodoro, la plastica che fate dal pomodoro? È una plastica che è 100% fatta da materiali vegetali, perché proprio viene da una trasformazione del vegetale stesso, quindi al tatto e all'occhio, alla vista e dal punto di vista meccanico è in tutto e per tutto una plastica, quindi può sostituire le plastiche sintetiche, però in realtà porta il profumo dei vegetali di cui è fatta ed è 100% un vegetale, quindi è biodegradabile a differenza delle plastiche sintetiche che usiamo in questo momento, quindi risolverebbe anche il problema dello smaltimento delle plastiche che creano inquinamento. Certo, è possibile capire come fate a partire dal pomodoro per arrivare a una plastica? Allora, in maniera molto semplice cercherò di darvi una, diciamo, una ricetta. Quello che noi facciamo è prendere questi scarti vegetali, che può essere la buccia del pomodoro, che possono essere gli scarti del cacao, li facciamo prima seccare all'interno di un forno, poi li tritiamo e li mixiamo con questo solvente che è un liquido e che è stato scoperto qua di T e che ci permette di separare questi scarti vegetali, quindi alla fine otteniamo una specie di liquido omogeneo. Sì. E quando questo liquido è pronto, quello che facciamo è centrifugarlo per rimuovere le impurità e poi banalmente lo impiattiamo, quindi lo mettiamo in delle forme, banalmente in dei piatti, lo lasciamo asciugare, quindi evapora la parte liquida e quello che otteniamo alla fine è in tutto e per tutto una plastica. No, Greta, ho sentito anche dagli scarti del caffè, è vero? Esattamente, sì. Noi parliamo proprio di tutto ciò che contiene cellulosa, quindi siamo partiti all'inizio da carta, quindi una trasformazione dalla carta che è pura cellulosa, e poi ci siamo accorti che questo metodo funziona con tutto ciò che contiene anche solo in parte la cellulosa, quindi i vegetali, le frutte, quindi parliamo di spinaci, prezzemolo, pomodoro, origano, caffè, cacao. Immaginate che ci sono delle industrie molto interessate perché nella loro catena di produzione hanno tantissimi scarti che derivano ad esempio dal cacao e dal caffè. E se tu metti un sacchetto con questa bioplastica, poi cosa succede? Questo sacchetto tu non lo usi più, praticamente si scioglie, è completamente degradabile, nel senso che poi si degrada, si scioglie, non inquina più. Esattamente, è biodegradabile, quindi nel giro di pochi anni, abbiamo fatto delle prove, nel giro di pochi anni messo in acqua di mare o sottoterra si degrada completamente, si scioglie completamente, mentre per le plastiche sintetiche si parla di un tempo praticamente infinito, quindi si parla di migliaia di anni. E sono fatte col petrolio? Esattamente, e l'altra differenza è che sono fatte col petrolio, mentre le bioplastiche sono fatte con vegetali, e spesso oltre al profumo i vegetali trasmettono alle plastiche anche delle altre proprietà che possono essere antibatteriche o antimicrobiotiche. Quindi immaginatevi il sacchetto di plastica che è fatto magari dalla cannella, con cannella, sì. Quindi è biodegradabile e in più porta con sé anche un'azione antibatterica della cannella, quindi ci mettiamo l'insalata dentro e oltre al fatto che è un sacchetto ecocompatibile, abbiamo anche la funzione antibatterica della cannella che non mi fa ad esempio creare dei batteri che mi possano attaccare l'insalata. Ma un bambino chiederebbe subito, e allora se è così perché non ne sostituiamo subito tutta la plastica domani? Ci stiamo lavorando, in questo momento ci sono molte molte aziende che sono interessate non soltanto per il packaging, quindi fare pacchetti per alimentari, ma anche per moltissime altre applicazioni, tra cui un esempio può essere anche quello della moda. Quindi immaginatevi la borsa, il braccialetto o il portafoglio fatto con una plastica colorata e profumata in cui è possibile scegliere il vegetale di cui è composta. Ovviamente in questo momento abbiamo molte aziende che sono interessate, che vorrebbero utilizzare queste bioplastiche e stiamo cercando di arrivare verso il mercato. Greta, questo è l'obiettivo nei prossimi anni. Mi stavo chiedendo, ma il tuo luogo di lavoro assomiglia più a una cucina, a un laboratorio di scienze, a una discarica? A come ce lo dobbiamo immaginare? Diciamo che è più una cucina, diciamo. Sì. In questo momento abbiamo alcune aziende che ci portano i rifiuti vegetali, anche soltanto la mensa del nostro edificio che ci produce, che per esempio ci presta gli scarti dei caffè, e noi con diciamo dei tavoloni, mm-hmm. immaginatevi un laboratorio di chimica, quindi diciamo tutti gli strumenti di Gargamella in qualche modo, ci proviamo a trasformare questi scarti in delle nuove plastiche per il futuro. Stiamo un po' lavorando su una tecnologia sostenibile, quindi passare da questi scarti, questi avanzi che vengono in questo momento non hanno un obiettivo in diciamo a dargli una seconda vita e cercare di trasformarli in qualcosa che possa aiutare l'ambiente, aiutare l'uomo, insomma, questa è la sostenibilità, vuol dire, no? Vivere in armonia con la natura, però guardando al futuro ed è quello che fate lì quotidianamente all'Istituto Italiano di Tecnologia. Grazie davvero a Greta Redaelli. Ciao Greta, buon terra in vista. Ciao. Ciao a tutti, grazie a voi. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Sultanato dell'Oman. Forse non sapevi che il Sultanato dell'Oman produce miele da oltre 1500 anni e che il suo miele è uno dei più puri di tutta la regione araba. Tradizionalmente gli apicoltori ricavavano le arnie dai tronchi vuoti delle palme, detti tubl. Per mantenere le api tranquille mentre lavoravano, gli apicoltori utilizzavano la procedura dell'affumicamento, anche se gli esperti sostengono che le api dell'Oman abbiano una natura molto pacifica. Oltre che per il suo comune uso alimentare, il miele, nel Sultanato dell'Oman, è molto prezioso anche in medicina. Infatti contiene antiossidanti che aiutano a ridurre il rischio di cancro e le malattie cardiovascolari. Ma delle api non si butta via niente. E anche il loro canto è molto prezioso. Infatti il loro ronzio è utilizzato per stimolare il sistema nervoso e cerebrale e aiuta nel trattamento dei problemi relativi all'udito e alle emicranie. Gli Expo Pub, le nostre curiosità che abbiamo trovato girando appunto tra i padiglioni di Expo, ma torniamo da Telmo Piovani, torniamo a parlare di spreco e torniamo a parlare di natura, perché la natura è fonte di ispirazione, vero? Beh sì, abbiamo parlato di lotta allo spreco e io direi che le campionesse del mondo antispreco sono le piante. Uh-huh. Per esempio delle palme non si butta via niente, ci sono 2500 specie di palme con le quali puoi fare di tutto. C'è la palma da dattero, la palma da cocco, la palma da olio, la palma da sago con cui si fa una farina molto nutriente. Il campione del mondo però di antispreco è il bambù. Una persona in diverse parti del mondo può alzarsi da un letto di bambù, in una casa di bambù, indossare sandali o jeans in bambù, mangiare da una ciotola in bambù, germogli di bambù, con bacchette di bambù, su un tavolo e una sedia di bambù. e poi dopo essersi riscaldato con un fuoco alimentato, se vuoi anche quello con il bambù, può fumarsi una pipa, scrivere con una penna anche quella fatta con un foglio di carta tutto in bambù, va al lavoro, attraversa un ponte di bambù, insomma tutta la vita è una sorta di nicchia ecologica fatta tutta di bambù di cui non si butta via niente. Questo è un esempio molto virtuoso secondo me di come il rapporto tra l'uomo e l'ambiente può dare origine a delle tecniche veramente completamente ecosostenibili. Pensa che nelle Filippine hanno di recente fatto un aereo tutto fatto di materiali di bambù, e una cosa che ho scoperto curiosa e molto particolare: Thomas Edison, quando nel 1879 fa la prima famosa lampadina a incandescenza, il filamento delle fibre che c'era dentro, sai di cosa era fatto? Posso immaginare? Forse... di bambù. Insomma, del bambù non si butta via niente. Questa è la natura, fonte di ispirazione quotidiana per la nostra sostenibilità. Adesso è il momento della scienza, è il momento di giocare con Andrea Vico. Expo Kids, dire, fare, giocare. Giornalista scientifico di TuScience, www.tuscience.it è il sito. Andrea Vico è colui il quale in ogni puntata ci propone esperimenti scientifici da appunto provare in casa, grandi e piccini, tutti insieme. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti, buongiorno Fede, buongiorno Telmo. Ciao Andrea. Oggi si parla di spreco, non sprechiamo tempo, cosa hai preparato per noi? Allora, la prima cosa, permettetemi di recuperare una tradizione del mio Piemonte, la Vansui Dinner, un misto tra piemontese e inglese, la cena degli avanzi. Mm-hmm. Quindi la prima cosa che si può fare concretamente contro lo spreco è con i vicini di casa di tanto in tanto organizzare una cena in cui ciascuno porta quello che gli è rimasto in frigo o in dispensa, si mette sul tavolo e tutti pescano allegramente. Non sono piatti completi, non sono portate sontuose, però perlomeno si evitano che quei piccoli gli avanzi che di tanto in tanto rimangono qua e là in cucina vadano buttati. Dal punto di vista più scientifico, l'esperimento che volevo proporvi è quello di andare a capire come il cibo si deteriora. Sì. Perché se non è conservato in maniera opportuna il cibo va male, detto in maniera questo, scusa, questo è utile anche per la cena degli avanzi, perché se un vicino arriva con un avanzo un po' troppo esagerato, noi scientificamente possiamo lasciarlo fuori di casa. Perfetto, hai capito tutto Federico, sei un grande. Quindi allora si può fare un salto in farmacia a prendere delle capsule Petri o delle piastre Petri, che sono degli oggetti che si usano nei laboratori. Se uno non ha voglia può prendere dei piattini da caffè, delle tazzine da caffè, e poi usare poi del cellophane. Sì. Si prendono una serie di cibi che si hanno veramente in casa, una carota, uno zucchino magari cotto, un uovo aperto, uno yogurt non finito, una fetta di mela, un pezzo di salsiccia cruda, un würstel, e si dispongono su questi piattini cercando di avere sempre di ogni cibo due parti, una su un piattino che poi rimane magari in dispensa e l'altro su un piattino che viene magari messo sul davanzale, sul balcone, sul terrazzo, quindi che prenda sole e caldo. Si copre il piattino con del cellophane e poi si aspetta, e ogni tanto, diciamo ogni 6-8 ore, si va a dare un'occhiata. Fondamentalmente ci sono dei cibi che deperiranno molto in fretta, altri che formeranno delle goccioline di vapore sulla parte del cellophane, quindi sono cibi molto acquosi, altri che sono fondamentalmente quasi intatti. Vi stupirete quanto dura il würstel, e forse anche ci interrogheremo su cosa c'è dentro, perché quel würstel duri così a lungo rispetto una salsiccia fresca di macelleria. Quindi, come dicevamo anche nella puntata che riguardava il gusto, l'uomo ha imparato a gestire il cibo anche dal punto di vista della conservazione. Questo ha sicuramente migliorato la salubrità dei pasti, e di tanto in tanto però ci affidiamo troppo alla nostra capacità di conservazione, pensiamo che il frigo sia una panacea per ogni situazione, quindi lo riempiamo fin troppo, ma ahimè anche in frigo le cose a un certo punto vanno male. Insomma, questo mi sembra un degno finale, perché insomma bisogna ricordarsi di quello che succede nella nostra cucina. Grazie Andrea, ti aspettiamo a cena. Ciao, buona domenica. Ciao. Adesso una filastrocca, il traffico, poi ancora qua con Terra in Vista. Lo scarabeo. Diceva lo scarabeo stercorario, facendo marameo a un dromedario, forte come maciste, ma molto triste. Senti, è della gobba che ti lamenti? ma fammi il piacere. Provo a darti un parere garbato e disinteressato. Rammenta che la vita è una cosa meravigliosa. E intanto spingeva senza posa, su per la salita, verso la sua baracca, la pallina di cacca. Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri. Il Falco e il Gabbiano si sdoppia dalle 15 alle 16 e dalle 22 alle 23. Le storie più emozionanti, quelle che avete scelto voi. Un mese da passare assieme, un colpo d'ala lungo quanto un'estate. Storie di vite straordinarie. Il Falco e il Gabbiano, dalle 15 alle 16, dalle 22 alle 23. Naturalmente su Radio 24. Terra in vista. Terra in vista, puntata dedicata alla parola spreco, che chiudiamo in maniera un po' atipica, perché Telmo, non c'è una domanda posta dai bambini, ma c'è un documento che è stato redatto per i bambini. È stata infatti realizzata la Carta di Milano, che adesso capiremo che cos'è, comunque uno dei frutti più importanti, credo, legati ad Expo, e in queste settimane, da pochi giorni, è stata presentata anche la versione per bambini. Ma per capire che cos'è la Carta di Milano dei bambini, abbiamo invitato il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina. Benvenuto, ministro. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, a lei il compito arduo di spiegare ai bambini che cos'è la Carta di Milano e cos'è questa versione, appunto, per i più piccoli. Ma noi avevamo promesso la presentazione di una Carta di Milano dei bambini, cioè di un atto fondamentale di educazione, di comprensione, legato in particolare ai bambini, proprio perché riteniamo da sempre che una delle vere sfide di Expo Milano 2015 sia proprio l'educazione, la comprensione della grande sfida che abbiamo davanti quando discutiamo di alimentazione, diritto al cibo, lotta allo spreco, educazione alimentare più in generale. Abbiamo realizzato questa carta, che è una storia molto, secondo me, interessante, vivace, carina, che consente in particolare agli under 14 di comprendere fino in fondo le grandi sfide che stanno dietro quel titolo, nutrire il pianeta, energie per la vita. E sarà uno strumento di lavoro, io spero tanto che sia anche un bello strumento di relazione tra genitori e figli. La stiamo distribuendo, in particolare a settembre-ottobre lavoreremo moltissimo nelle scuole, stiamo preparando anche con il Ministero dell'Istruzione una settimana dedicata alla Carta di Milano nelle scuole italiane. E questo vuole essere veramente uno dei lasciti più importanti dell'esposizione di Milano, cioè una vera operazione innanzitutto culturale, di comprensione dei grandi temi che stiamo cercando di affrontare nei 6 mesi di Expo. Certo, ricordiamo che la Carta di Milano, il curatore scientifico è Salvatore Veca, il coordinatore Massimiliano Tarantino, di Laboratorio Expo. In fondazionefeltrinelli.it/laboratorio-expo ci sono già tanti materiali didattici sulla Carta di Milano. Ministro, lei Expo lo sta frequentando quotidianamente, tanti bambini girano per i padiglioni, cosa vede nei loro occhi? Riescono a gustare, ad assaporare quello che curiosità, stupore, grande attenzione, più degli adulti, mi verrebbe da dire ogni tanto, sui contenuti dei padiglioni. Sono stupiti e assolutamente attenti a tutti i percorsi, in particolare ai tantissimi padiglioni che hanno realizzato dei percorsi di edutainment specifici proprio per l'infanzia e l'adolescenza. È una delle cose più belle in assoluto di questa esposizione universale, proprio la sua chiave educativa. Tantissimi paesi hanno fatto leva sostanzialmente su quello. Mi viene in mente il Kazakistan, per dirne uno che sta stupendo molto, piuttosto che gli stessi Stati Uniti, Israele, l'Angola. Vedo veramente lo stupore nei loro occhi e sono molto contento, perché mi capita spesso di incrociarli all'uscita, sì, dopo una giornata intera all'Esposizione Universale, quando domandi a loro se si sono divertiti, se hanno capito e che cosa si portano a casa. Le storie che raccontano sono eccezionali. Una delle cose più belle è proprio ascoltarli mentre escono. Insomma, credo sia una bella soddisfazione. Ma anch'io ho visto tantissimi, sì. Anch'io ho visto tantissimi ragazzi, tutte le volte sono stati in Expo. Mi viene una domanda: la carta di Milano ha un tema molto bello al centro, che è la custodia della terra, e che naturalmente va affidata alle generazioni future. Faccio una domanda al politico oltre che al ministro: ci sono alcuni costituzionalisti che dicono che addirittura dovremmo imparare ad aggiungere nelle costituzioni il diritto delle generazioni future, no? Perché noi abbiamo una responsabilità nei loro confronti, è vero? Ma io sono interessato a questa discussione perché per la mia parte, per la mia esperienza ad esempio, questa è una discussione che incrocia anche il tema della costituzionalizzazione del diritto al cibo. È una grande questione che da tempo si sta dibattendo nella comunità internazionale. Sono pochi i paesi che hanno in costituzione il diritto al cibo. E invece io credo che questa sia una frontiera vera anche dell'impegno delle istituzioni, assumere fino in fondo questa responsabilità e questo tema, indicarlo precisamente nelle costituzioni potrebbe significare compiere un passo in avanti ulteriore dal lato della responsabilità, in particolare dello spazio pubblico. E per cui tutto quello che si può in qualche modo promuovere nei 6 mesi di Expo per allargare il fronte della consapevolezza, secondo me va incoraggiato e sostenuto. Grazie davvero Ministro per averci raccontato la carta di Milano dei Bambini. Buon terra in vista. Grazie. Grazie. E continuiamo però a farvela vedere questa carta, e ve la raccontiamo con chi l'ha scritta, o meglio con chi l'ha tradotta, ha preso la carta di Milano, quella ufficiale, e l'ha tradotta per i più piccoli. Diamo il benvenuto alla scrittrice Marta Pastorino. Ciao Marta. Ciao. Ciao, buongiorno. Ciao. Un lavoro di, continuiamo a usare questa parola, di traduzione, che è stato in verità di narrazione, di spiegazione. Com'è stato tuffarsi in queste parole, in questi concetti anche molto alti, e cercare di renderli comprensibili ai più piccoli? Allora, guarda, il primo lavoro che ho fatto è stato quello di introiettare i contenuti della carta, io stessa. Uh-huh. Di sposarli alcuni, di comprenderli, di dubitare su altri, però comunque di farli miei. Dopodiché ho parlato con dei ragazzini. Ah. Ho parlato con dei ragazzini di 10, 11, 12 anni, ho letto loro la carta e ho chiacchierato con loro chiedendomi di spiegarmi, che mi spiegassero cosa volevano dire certe parole, anche difficili. E quello che mi sono resa conto è che loro non hanno compromessi, il loro linguaggio è semplice ed è vicino, legato alle azioni. E quindi il lavoro di traduzione è stato quello di semplificare, di andare al nocciolo delle questioni. E questo credo che sia stato il passaggio della traduzione, prendere da loro veramente anche il linguaggio, non soltanto parlavate della responsabilità, non soltanto le azioni, l'eredità che la carta ha come lascito per le generazioni future, ma proprio che sia scritta da loro veramente in qualche modo. Infatti il linguaggio è molto diretto. Adesso sto sfogliando qualche pagina così a caso, ho trovato un passaggio legato a quello che diceva Telmo prima, no? I bambini che dicono: vogliamo dire ai grandi alcune cose a cui teniamo molto, per esempio noi siamo i custodi della terra e la terra custodisce noi, dobbiamo proteggerla così lei proteggerà noi. E sono tanti passaggi molto belli, molto diretti, senza compromessi, come dicevi tu. E, Marta, oggi parliamo di spreco, in particolare in questa puntata c'è qualche parola, c'è qualche immagine legata allo spreco che ci tieni a sottolineare? Ma guarda, il fatto che ci sia veramente una funzione di responsabilità, di iniziare a, come se ormai fosse anche veramente quasi troppo tardi, però di iniziare a fare sì che i bambini si educhino e educhino i genitori a situare un vero cambiamento nelle azioni rispetto al cibo, rispetto a non sprecarlo, è come se potesse essere veramente per tutti adesso, per tutti quanti i bambini, questo passaggio generazionale di iniziare a occuparsi davvero del cibo. Ricordiamo fondazionefeltrinelli.it per avere tutte le informazioni e per poter anche richiedere la carta di Milano dei bambini, e ai bambini viene chiesto di mettere una firma, quindi di sottoscriverla e di dire sì, noi crediamo in questa cosa. Ciao Marta, grazie davvero, complimenti. Ciao ciao ciao, ciao. Ciao. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Estonia. L'isola più grande dell'Estonia si chiama Kinnu. Le donne di Kinnu indossano i vestiti tradizionali anche nella vita di tutti i giorni. Tanto che, passeggiando per le campagne, vi potrà capitare di vederle, nella loro gonna a strisce, anche alla guida dei trattori. Le loro tradizioni sono tanto profonde che l'UNESCO ha incluso la cerimonia nuziale di Kinnu nell'elenco del patrimonio culturale mondiale. Altra isola estone è Saaremaa, famosa per i suoi tipici mulini a vento e per la possente quercia dello stadio di Orissaare, dichiarata Albero d'Europa del 2015. E questo è quello che abbiamo imparato oggi. Che troppo cibo finisce in spazzatura e molto altro cibo è spazzatura. Che sulla terra tante persone non hanno da mangiare e altrettante mangiano troppo. Che un giorno metteremo la spesa in sacchetti di plastica fatti con gli scarti del caffè. Per non sprecare gli sprechi si può sempre organizzare una cena degli avanzi. Il motto scelto dai bambini per la loro carta di Milano di Expo è cibo buono per tutti. E questo era Terra in Vista, un programma di e con Federico Taddia e Telmo Pievani, scritto con Margherita Ina e Silvia Righini, alla parte tecnica Filippa Ureggi e Gianmarco Ferronato. Le attività pratiche sono state proposte come sempre da Andrea Vico e Alessandra Falconi. Terra in Vista at radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Tutto ciò lo potete ritrovare e riascoltare sul sito radio24.it. Nelle nostre pagine, nelle pagine di Terra in Vista. Ciao Telmo, alla prossima puntata. Alla prossima. Grazie, come sempre. Il camion della spazzatura. Un mistero aleggia sulla città. La spazzatura, che fine farà? E quel camion che la mangia, non avrà poi mal di pancia?